Tutti convocati Magazine di Carlo Genta. Buonasera a tutti, con Fabio Cantadori, capitano in regia, Franco Piantanida, autore di questo programma. Siamo qui a chiudere il cerchio di una settimana che, se volete, è stata strana, è stata un po' la settimana della nostalgia, come abbiamo detto e ripetuto molte volte. Mi è capitato di dire e di scrivere come, insomma, una settimana che si è aperta all'insegna del refrain e del ricordo di un gol, del gol più famoso della storia, di cui poi torneremo a parlare, quello di Turone del 1981, le suggestioni di Pablito Mundial, perché c'è stata, abbiamo visto, Italia-Brasile, e rimane ancora valido quel primato, cioè 82, ultima volta in cui abbiamo battuto i Verde Oro, anche se abbiamo visto una volta di più brillare la stella di Balotelli. Mi è capitato, dicevo, di dire e di scrivere, di suggerire una colonna sonora che sinceramente non è che mi appartenga molto come cultura musicale, però c'è stato il primo giorno di primavera, maledetta primavera di Loretta Goggi 1981, ci poteva anche stare. In quell'anno Pietro Mennea, e qui arriviamo alla nostalgia vera e alla notizia più importante della settimana e più triste della settimana, in quell'anno di maledetta primavera, Pietro Mennea era sul tetto del mondo, perché nel 79 a Città del Messico aveva schiantato i cronometri con un tempo che è rimasto un'icona, che è rimasto una leggenda, un tabellone luminoso 19-72 che non si è mai spento nella nostra memoria. Si è spento invece Pietro Mennea, di cui oggi sono stati celebrati i funerali. Allora, Dario Ceccarelli ha intervistato il precursore di Mennea, il grande sprinter della nostra storia, un personaggio per qualche aspetto, anzi per molti aspetti, opposto a quello che era Pietro Mennea, ossia Livio Berruti, che era stato il grande protagonista delle Olimpiadi di Roma 60, prima che poi Mennea nell'80, dopo quello straordinario record del mondo, vinse l'oro a Mosca. Ricordate la famosa Olimpiade del boicottaggio, ma questo poco importa, perché di un grande oro olimpico e di un grande campione che ha dominato per 15 anni la specialità dello sprint si è trattato. Allora sentiamo Livio Berruti. Livio Berruti è stato un grandissimo velocista, ma di un'altra generazione. Che campione è stato invece Pietro Mennea? È stato, diciamo, un campione della sofferenza e del lavoro, non più da velocista ma da mezzofondista. È stato l'atleta che ha, per merito del suo allenatore Vittori, scoperto che anche nel campo della velocità bisogna fare allenamenti di resistenza, e questo l'ha ampiamente premiato, perché gli ha permesso di vincere le Olimpiadi a Mosca e di fare tanti altri ottimi risultati. Quindi un atleta che purtroppo non ha dato questo esempio di gioia come la Simeone, ha sempre dato questo esempio di sofferenza, di dolore, di dramma, che non penso fosse un buon viatico per i giovani che vogliono affrontare lo sport. Ecco, perché questa sofferenza? Forse era un corridore del sud, portava con sé questo desiderio di affermarsi. Ma in genere gli uomini del sud sono più gioiosi, sono più aperti, più cordiali. Lui aveva proprio un carattere così un po' chiuso, un po' ombroso, molto sensibile. Forse questo eccesso di sensibilità lo riversava anche nell'attività sportiva e gli impediva probabilmente di aprirsi e di essere più naturale con tutti. Infatti cercava più la solitudine che la folla, era un personaggio solitario che si autocaricava da solo, quindi un atleta dalle immense capacità psicologiche che gli hanno permesso di superare dei limiti che a volte aveva a livello fisico. Voi vi stimavate, ma non eravate molto amici, vero? Beh, due mondi completamente diversi. Il mio era un mondo, diciamo, platonico, di idealismo, di felicità, di gioia, di apertura e soprattutto di uguaglianza con tutto. Lui invece l'aveva interpretato in maniera più egocentrica, questa sua attività. Si sentiva il migliore di tutti e cercava a volte di far pesare questa sua differenza. Quindi non ha capito a volte certi valori dello sport, che sono valori di uguaglianza, di lealtà, di soprattutto di gioia e di felicità da trasmettere a sé e agli altri. Molti si domandano come fosse possibile che un atleta come Mennea, non un talento naturale, sia arrivato così lontano. Lei che spiegazione dà? Ma uno, il suo grande merito è il lavoro che ha fatto. Lui ha sopportato dei carichi di allenamento talmente elevati che tutti gli altri velocisti che hanno cercato di seguirlo si sono rotti, hanno avuto degli incidenti muscolari, mentre invece lui ha resistito, e questo quindi è il suo grande merito. Grande merito appunto che va addebitato soprattutto al suo allenatore Vittori, che ha scoperto questo personaggio in grado di sopportare le sue angherie di allenamento. Però doveva avere un grande carattere per riuscire, come diceva lei, appunto a sopportare questi carichi. Sì, una grande volontà, una grande determinazione, una grande cocciutaggio, proprio in quello era un esempio per tutti, per questa sua estrema volontà di raggiungere il risultato con ogni mezzo e con ogni tipo di fatica. Tra lei e Mennea c'erano pochi anni di differenza in fondo, però sembra un mondo lontanissimo. Io perché rappresentavo un po' il mondo un po' bucolico degli anni 60, dove eravamo dei veri dilettanti, dove si gareggiava per piacere, per la gioia, ma senza monetizzazione. Invece con Mennea, diciamo, ha praticamente inaugurato l'era del professionismo anche in atletica, dove tutto veniva pagato, dove tutto veniva monetizzato, dove lo sport non era più un corollario della tua vita, ma era un'attività determinante per aiutare il tuo futuro, per giustificare il tuo futuro. Dunque, dopo aver sentito Livio Berruti e il suo ricordo di Pietro Mennea, argomento sul quale tra poco torneremo con altre testimonianze, altri racconti, altre storie, musiche, voglio farvi sentire invece un tratto di cronaca, un brano di cronaca, perché Malagon, nuovo presidente del CONI, è stato ieri nella Camera Ardente, al CONI stesso, il primo a rendere omaggio alla salma di Mennea. Malagò. Ma io credo che non ci sia un aggettivo, una parola che attesti esattamente cosa perde. Perde un gigante che ha probabilmente più di tutti rappresentato la sfida tra un uomo normale e i superuomini, parlo ovviamente sotto il profilo fisico, atletico, e la vittoria della caparbietà, della determinazione, della volontà, anche della rabbia, che ha accompagnato, secondo me, due, forse tre generazioni. È una persona che è, secondo me, diventata una leggenda sportivamente parlando, con un record che è durato 17 anni in una gara come 200 metri. Credo che non serve essere grandi esperti di sport per rendersi conto di che cosa parliamo. Dovessi dire in assoluto, ma questo è a prescindere dal mio ruolo oggi col CONI, a livello personale, io l'ho considerato sempre, almeno come mio idolo, l'ho considerato il più grande di tutti. Uno come Mennea avrebbe dovuto svolgere un ruolo importante anche dopo il ritiro dell'attività, insomma, uno come Mennea poteva insegnare sport a tanti. Sì, forse questo per lui era una ferita, però la viveva appunto certo della forza delle sue idee, ne ho parlato tante volte. Non credo di svelare un segreto, ma facesse molto tifo per la mia candidatura, mi ha parlato durante il mio discorso, quella fiducia che è stata importante, perché era uno forse troppo contro, non lo so, però sicuramente uno che amava troppo lo sport in un certo modo, faceva fatica a confrontarsi con un certo tipo di dirigenti, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ma questo non devo certo essere io a scoprirlo. Ora ci fermiamo per il traffico, ma poi torniamo su questo argomento. Non mancheremo di parlarvi di altro, di farvi risentire le vostre voci, di andare anche su argomenti diversi, come vi dicevo prima, sempre nostalgici, ma di un altro taglio, come il famoso gol di Turone. Più tardi però, quindi state con noi con il magazine. Tutti convocati magazine. Beh, direi di continuare sull'onda di questa emozione, perché giovedì, nel giorno in cui siamo stati colpiti come un pugno in faccia dalla notizia della morte di Pietro Mennea, abbiamo voluto ricordarlo con una canzone, con dei suoni, con delle interviste, con delle dichiarazioni che erano molto vive, secondo me, e abbiamo sentito la testimonianza anche di Gianni Merlo, storico inviato della Gazzetta dello Sport, che rimane, a mio parere, ma non solo a mio parere, credo, la più prestigiosa firma italiana dell'atletica leggera. Sentiamo. 15 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primo artista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto record. Buono l'avvio, parte più svelto Wells nei confronti di Mennea che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta per lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea, è al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, ha vinto! Io saluto e ringrazio quella che a mio parere, ma non solo a mio parere, è la voce più autorevole dell'atletica italiana per la Gazzetta dello Sport, Gianni Merlo. Buongiorno Gianni e grazie. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Gianni, io dalla retorica voglio stare lontano, questo è solo un ricordo con una canzone bella e viva di Pietro Mennea, che è stato un'icona della nostra storia, non solo sportiva. Vabbè, per forza. Io praticamente sono, come giornalista, sono nato insieme a lui, quindi... dai primi passi, proprio dal 1970, quando lui e la Simeoni insieme entrarono nei primi sei dei campionati europei juniores, poi nel 71 ad Helsinki ai campionati europei maggiori dove lui fu finalista e la Simeoni cominciò a conquistare il pubblico, poi nel 72, cioè diciamo che la sua carriera è coincisa anche con la mia carriera di giornalista. Gianni, 1972, nel 1979 Città del Messico, Universiadi, poi 80 medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca, quelle ricordiamo boicottate dagli Stati Uniti, le sue parole: mi spiace aver tolto un record così a Tommy Smith, ci vuole poi Michael Johnson molti anni dopo, 17 anni dopo come ben sappiamo, perché questa è storia, per togliergli quel primato che rimane ancora primato europeo sui 200 metri. 1972, 1979 fu un tempo fuori dai tempi. No, era un salto nel futuro soprattutto. È chiaro che aveva sfruttato il vantaggio dell'altitudine, però era anche il primo uomo bianco a avere battuto molti americani. Quindi non è stato un caso fortunato, era semplicemente il suggello di un atleta di grande classe, perché quello che lui ha fatto l'ha fatto negli anni, perché tu puoi anche fare una volta un grande risultato e poi sparire. No, lui per 15 anni è sempre stato ad alto livello, per questo è rimasto un'icona. Sì. Senti, tu Gianni Merlo cosa porti dentro oggi? Sei nato con lui, hai seguito tutta la sua carriera, io voglio un tuo ricordo personale. Non è facile, perché vedi, a me è capitato anche di condividere la stanza con lui una notte a Genova quando lui fece il mondiale indoor dei 200 metri. E tu sai che in una notte, logicamente in letti separati, prima di prendere sonno ci si racconta tante cose, perché soprattutto dopo una gara molto nervosa così è difficile addormentarsi alle 11, ci si addormenta alle 2, no? E quindi abbiamo avuto 3 ore per parlare della vita, delle sue origini, di suo padre che se n'era andato in Australia, l'aveva lasciato solo, poi era rientrato, cioè tutte le cose umane di un uomo che spera di cambiare la vita attraverso lo sport. Quella diciamo che è stata una notte molto importante a Genova, tanti anni fa, dove siamo capitati nella stessa stanza perché non c'erano più stanze nell'albergo, c'era brutto tempo, la neve come in questi giorni, no? E quindi siamo stati costretti a fermarci tutti e due a Genova, però abbiamo vissuto un momento, diciamo, di amicizia che non è uguale. come valuti la sua vita dopo le piste? Vabbè, lui ha fatto una vita brillante, perché ha preso laurea, è andato in giro, è stato anche al Parlamento Europeo. Diciamo che lui se l'ha cavata, esattamente perché si è applicato come si applicava nello sport. Poi può anche aver ricevuto critiche o meno, questo è un giudizio che ad altri spetta. Però diciamo che dal campo alla vita comune, poi lui non ha cambiato il sistema, ha continuato a lavorare duramente. Ultima considerazione, Gianni, ci sono dei momenti, la faccio da romantico, quale non sono, per la verità. Curioso però come certe volte lo sport aveva bisogno di un bagno di nostalgia e le catene, gli anelli della catena si intrecciano. Oggi Pietro Mennea, in questa settimana abbiamo parlato del gol di Turone, questa sera Italia-Brasile. È strano tutto questo, solo le stelle dello sport possono così illuminare questo cammino. Sì, no, perché praticamente le stelle dello sport sono un patrimonio di tutto un paese, no? E anche talvolta di tutto il mondo, perché Mennea in quel periodo era molto conosciuto anche all'estero. Cioè, noi non abbiamo avuto moltissimi campioni conosciuti all'estero. Nel calcio abbiamo avuto Baggio, abbiamo avuto altri, più facilmente Paolo Rossi, altre cose. Nello sci abbiamo avuto Tomba, che aveva una figura internazionale. Mennea era stato uno degli atleti dell'atletica, con insieme alla Simeoni, che aveva una caratura internazionale, che conoscevano in giro per il mondo. E questo è veramente qualcosa di importante, e che è difficile anche da riprodurre, perché tu hai bisogno di 10 anni di carriera per costruirti un personaggio noto da tutte le parti. Adesso anche il calcio, a parte Messi e altri, e pochi altri, molti spariscono senza, dopo essere stati sul palcoscenico in un modo effimero. Sì. Perché l'importante è essere sul palcoscenico per tanti anni ad alto livello e seriamente. Diciamo che Mennea quello l'ha fatto. Bene, adesso traghettiamo dall'argomento di Mennea ad altre considerazioni, sempre emerse in settimana. Come sapete, la partita tra Italia e Brasile è stata preceduta da questo summit contro il razzismo nel calcio. Summit, a mio parere, è sempre un po' intriso di demagogia, di luoghi comuni, di frasi fatte. Presente Kevin Prince Boateng, giocatore del Milan e protagonista, come sapete, di un gesto molto eclatante qualche tempo fa, quando in amichevole abbandonò il campo. È stato ospite d'onore di questo incontro e allora lo sentiamo con Dario Ricci. Secondo me è importante, tutte le squadre a seguito di me, questo è un segnale fortissimo al mondo, e per quello sono qui. Certo, io ho fatto cosa posso fare io. Ho fatto il mio segnale, ma non è come io ho svegliato un giorno prima e ho detto domani faccio questo. No, questo ho avuto in questo momento. Ma io ho fatto il mio segnale, questo è un segnale forte, perché anche tutto il Milan, il presidente e tutta la squadra seguite me. E adesso dobbiamo lavorare anche altri presidenti e altre persone importanti. Ha citato Nelson Mandela oggi. In quel momento a Busto Arsizio hai pensato a quello sguardo che avevi incrociato in Sudafrica 2010? Anche, certo, perché è un uomo incredibile. È per me un onore, come si dice, stringere la mano, no? Per quello sono in questo momento anche pensato a lui. Importante per battere il razzismo, è importante non facciamo in guerra, in negativo. Importante facciamo con un riso e con un pensiamo positivo. Questo è importante, perché pensiamo male e facciamo male su altri, siamo come loro. Penso proprio sia mai stata oggetto di episodi di razzismo, anzi ne sono certo, la magnifica compagna di Kevin Prince Boateng, cioè Melissa Satta, che pure Dario Ricci ha intervistato ad ingentilire, diciamo così, l'argomento. Melissa Satta in prima fila in una giornata davvero particolare, ti abbiamo vista molto emozionata all'inizio. Beh sì, penso che sia un'occasione unica questa, sono molto fiera. C'è stato anche un bacio di incoraggiamento per Kevin, per rompere un po' il ghiaccio con questo ambiente così particolare. Ma penso che in momenti così delicati bisogna sempre supportare, no? E quindi io cerco di fare il minimo. Alla fine di questa giornata cosa rimane? Abbiamo visto un Boateng molto determinato, come lo vediamo spesso in campo, parole forti e chiare contro il razzismo. Ma Ma sì, secondo me lui ha fatto un discorso pazzesco, è stato bravissimo, sono molto orgogliosa e spero che questo sia solo un inizio e non una fine di una giornata, è forse l'inizio di tante belle giornate. Inizia un'altra partita importante, forse più importante di qualsiasi scudetto. Assolutamente, questa è una partita, è come la finale di un mondiale secondo me, e quindi che non devono combattere solo loro in campo ma anche noi fuori dal campo. E questa era Melissa Satta. Adesso ci fermiamo per una breve pausa, poi abbiamo un ospite che ci attende e poi in chiusura torniamo su quella questione di centimetri che ha infiammato gli anni Ottanta e che ha mandato a fuoco di recente gli archivi della RAI. Tutti convocati Magazine. Dunque, dopo aver sentito storie di razzismo pseudotale da Boateng e Melissa Satta, vorrei tornare all'argomento di apertura, che è poi quello che ha dominato la settimana della nostalgia, cioè quello relativo a Pietro Mennea, parlando con un altro grande esperto, dopo Gianni Merlo, di atletica, esperto televisivo in questo caso, c'è il nostro amico Nicola Roggero da Sky. Ciao Nicola. Ciao, buongiorno anche agli ascoltatori. Sarà successo anche a te, come a me, come a tutti noi che abbiamo una certa età, un giorno o magari più volte di sentirti dire: ma chi sei, Mennea? Beh, in effetti era entrata questa figura proprio nell'immaginario di questo paese, quindi era un punto di riferimento per chiunque, per chi seguiva lo sport, per i ragazzini, per chi sognava di ripeterne le imprese. E tutto sommato tutto questo è testimoniato anche dalla partecipazione, dall'emozione che ha dato questa sua morte in età ancora giovane, soprattutto improvvisa, perché praticamente nessuno sapeva, era a conoscenza della malattia che aveva colpito Pietro Mennea negli ultimi 7-8 mesi. Io credo che scompaia con Mennea la figura del più grande sportivo italiano di ogni tempo. Credo che soltanto Fausto Coppi sia paragonabile a Mennea per quello che ha rappresentato, col fatto che però Coppi correva, insomma, le sue imprese sono datate nell'immediato dopoguerra, quindi in una situazione anche drammatica, per cui socialmente parlando è chiaro che il rilievo delle imprese di Coppi, con tutto quello che comportava, la rivalità con Parta, il periodo d'oro del ciclismo e appunto una situazione di estrema povertà del paese, hanno finito per ingigantire una figura. Mennea è stato grandissimo in una specialità anzitutto universale come l'atletica leggera, e all'interno dell'atletica leggera la più universale di tutti, che è la velocità. Sì. Ha fatto delle cose che nessun altro sportivo italiano ha mai realizzato. Sì, e mi è capitato anche di dire che quel tabellone luminoso di Città del Messico, quel 1972, rimane un'icona della storia italiana, un'icona che non si spegnerà mai. No, basta pensare che parliamo di un episodio di 34 anni fa. Di storia, dico, non di storia dello sport. Sì. È un episodio di 34 anni fa che però rimane impresso, tra l'altro con la particolarità che quell'impresa ebbe pochissimi testimoni, perché non c'era la televisione, ci sono rarissimi documenti filmati, quindi ha il vantaggio del mito, perché non... Le disfide tra Achille e Ettore nell'Iliade non sarebbero state tali se ci fosse stata la televisione, avrebbe in qualche modo rimpicciolito l'epopea delle pagine numeriche. Sì, Nicola, andando verso il calcio in questa settimana della nostalgia, no? C'è stato, poi ne parliamo anche, la storia refrain del gol di Turone, c'è stato il ricordo, abbiamo rivisto anche su Sky quei famosi 3 gol al Brasile per cui Paolo Rossi diventò un giorno Pablito, adesso lavora con voi come opinionista, e poi adesso ci troviamo per le mani una nazionale che è molto interessante, che non batte il Brasile perché è solo un 2-2, che però ha un Balotelli, questa è la cosa che mi sorprende, un Balotelli che la gente, che forse il grande pubblico non riesce ad amare, io non capisco perché. Ma nemmeno io, anche perché parliamo di un giocatore delle potenzialità fenomenali, che lo dimostra, direi che da quando è tornato in Italia comincia a dimostrarlo un pochino più spesso rispetto a quando era al Manchester City, dove tra l'altro faceva già vedere delle cose molto interessanti. Sì, anche perché poi dimostrarlo in tribuna è un po' dura. Esatto. tratta di un giocatore, ripeto, a mio parere fenomenale. È un ragazzo di 23 anni che si è trovato al centro dell'interesse in maniera superiore a quanto capita solitamente i suoi coetanei. Parlo dei coetanei che fanno sport, quindi non soltanto dei 23 anni in generale. Probabilmente ha avuto anche qualche difficoltà a gestire questa situazione, però mi pare di poter dire che si è sempre illustrato per delle sciocchezze, per delle stupidaggini. Adesso è antipatico doverlo dire, però non ha mai avuto gli atteggiamenti di Cassano, non è mai capitato che in uno spogliatoio qualcuno abbia detto vogliamo Balotelli. Appunto. A Cassano è capitato. Appunto. Guarda, fuori luogo direi questo parallelo che troppe volte è stato fatto tra Balotelli e Cassano. Fuori luogo, anzitutto dal punto di vista tecnico. Cioè, sì. Da una parte parliamo di uno che ha già fatto la differenza in partite importanti, penso alla semifinale del Mobile dell'anno scorso, penso quando si procurò un rigore in un Manchester City Tottenham in cui il City era in obiettiva difficoltà, in questo rigore se lo procurò al 94esimo, lo trasformò e quei due punti poi sono rivelati decisivi per la conquista del titolo da parte del City. Penso al gol in una semifinale di Coppa d'Inghilterra contro lo United ed era un derby. Penso al derby finito 6-1 in cui Balotelli ha realizzato il primo gol ed ha provocato l'espulsione di Evans che poi ha determinato lo squilibrio dei valori. Abbiamo già messo insieme una serie di partite in cui si dimostra che Balotelli qualcosa ha fatto. Io sfido chiunque a elencarmi le partite importanti in cui Cassano è stato decisivo. Ma certo. Partite importanti che assegna un titolo, una coppa o barriera nazionale, io non me ne ricordo. No, nemmeno io, ma anche perché non ci sono. Nicola, io ti ringrazio, è stato come sempre un piacere. A prestissimo. Grazie a voi. Grazie a Nicola Roggero. Adesso uno dei momenti più attesi del magazine del sabato, perché torniamo a riascoltare voi, le vostre voci, il podio su cui salgono i tre migliori ascoltatori della settimana, a partire da questo. Franco Roma, buongiorno. Buongiorno Carlo. Parliamo di Bruno Conti o parliamo di calcio? No, voglio parlare del calcio, dei Balotelli soprattutto. Che ne mei? Io sono un italo-sudamericano e ti dico una cosa, quel ragazzo sta maturando, no? Sì. Per me è un grande, ha fatto un bel gol e con i gol si vincono le partite. Sì. Quindi te devo dire, diamole la fiducia che tu dicevi prima e vediamo come si protrarre il tempo. E vedrai che uscirà una cosa bella. Sì. Uscirà una cosa bellissima. Mi è piaciuto tantissimo il gol che ha fatto ieri. Ieri ha fatto un gol meraviglioso. È strepitoso. Guarda, era la terza parte del campo e sono rimasto perplesso. Mi è passato vedere due tre passaggi della partita, come si sta comportando quel ragazzo. Perciò tutto quello che ha fatto in precedenza, lasciamolo perdere, lasciamolo maturare e vedremo i risultati. Forza Italia! Grazie Franco, da dove viene? Di dov'è? No, io sono un italiano per giuri sanguigni, nato in Perù. Nato in Perù? Sì. Ho capito, quindi... Forza Coraio, da tanti anni in Roma e poi... Quindi due maglie nell'armadio, una azzurra e l'altra bianca con la banda orizzontale rossa. Rossa. Ormai la mia squadra del cuore è morta con Cuvillas, con Sotil, con Uribe, con Barbadillo. Qualche anno fa. A proposito, ma la fiducia ancora, però l'Italia sempre. Il mio primo mondiale con una squadra è stato con l'Italia. Perciò, forza Mario, forza a tutti. Grazie, Carlo. Allora, subito sul secondo gradino del podio con un altro ascoltatore, Enzo da Napoli. Buongiorno, volevo dire, ma se Cavani vale 63 milioni, e Balotello quanto vale? Meno. Meno perché Cavani sono anni che segna un sacco di gol nel campionato italiano. Vabbè, ma tecnicamente già da come batti i rigori ti fa deliziare, secondo me. Balotelli? Non sbaglia mai. Poi c'è una lucidità, insomma, che è rara, una cosa vista raramente in un calciatore italiano, non è mai esistita forse. E poi Mazzarri, ma non è che la fa troppo innervosire la squadra? Ma il Napoli vive così, vive su queste. Ma no, ma Enzo, però il Napoli vive su queste tensioni, su questa carica, su questo settarismo, su questo. Esatto, ma non c'è mai una lucidità, una continuità. È su tre anni. Allora, dopo Enzo da Napoli, subito sul primo gradino del podio, una volta tanto struggente questo. Carlo Roma, 800 24 00 24, numero verde. 19.72, sì. Chiedo scusa un attimo. Carlo. Sono stato travolto dalla notizia. Sì. Perché in questo momento Mennea potrebbe essere enormemente utile. Alla, chiedo scusa ancora, alla ripresa dell'Italia. Sì. Mennea ci lascia una eredità e una lezione importante. Io ho avuto modo di leggere il libro 1972 perché ho sentito Mennea in una trasmissione di una radio romana meno di un anno fa e ho comprato il libro. Nel libro c'è coerenza, impegno, determinazione e sacrificio. Tutti convocati Magazine. Dunque, qualcuno tra i più snob dei nostri ascoltatori si è lamentato, secondo me, con poco fondamento, perché su certe cose è giusto anche così scherzare, ma parlare con personaggi che hanno fatto la storia del calcio e del giornalismo sportivo italiano, piaccia o no, cari amici snob. Ebbene, è tornata alla ribalta la storia del gol di Turone, a proposito di nostalgia, quell'intervista di Carlo Sassi che ha detto il gol di Turone, quelle immagini del gol di Turone furono taroccate a Roma, poi si è capito con il telebeam esperimento nato a metà degli anni 80, insomma nell'86 è stata tirata fuori, 5 anni dopo è stata ritirata fuori la Domenica Sportiva, questa storia del gol di Turone, con questo strumento che allora era qualcosa di avveniristico, oggi fa un po' ridere. Il telebeam dimostrò che Turone era in posizione regolare, però c'è il tarocco? Non c'è il tarocco? Chi lo sa? Risentiamo questa chiacchierata che abbiamo fatto con il famoso conduttore del processo del lunedì. Tutti convocati. Non potevamo oggi non parlare con Aldo Biscardi. Sono qui. Direttore, chiamato direttamente in causa da Giuliano Sancini, direttore dell'epoca, il giorno dopo Biscardi fece un casino. Alla luce di questi fatti, che cosa mi dici? Beh, io ho fatto vedere questa moviola, no? Che era la faceva Sassi la Domenica Sportiva, io non feci altro che ripetere quella, e venne fuori che col Turone era fuori gioco e la Roma era infuriata. Io c'avevo il presidente della Roma in diretta, c'avevo Marianetti che allora era segretario della CGL, che era un tifoso romanista, e quindi c'avevo il direttore dei giornali e tutti a vedere questa cosa qui, e fu una cosa enorme. Tanto più che una settimana dopo io in diretta, perché Platini aveva avuto un premio, il migliore giocatore europeo, vi ricordate? Certo. E Pippo Baudo faceva una trasmissione in diretta, in esclusiva dall'Europa, da Parigi, e c'era Platini tra gli invitati. Allora io ho detto, la Juventus non dava giocatore al processo, perché dopo questo fatto di Turone si sono arrabbiati. Allora io ho detto con Paolo, vabbè, dici se fai un'eccezione, Platini, non gli chiedo niente, dice, però non gli chiedere niente della moviola di Turone. E io non gli chiesi niente. Alla fine però, dentro che era tutto un clima particolare, ho detto, vabbè, allora Michel, dimmi una cosa, tu come l'hai visto con Turone? Ai, ai, ai, ai, adesso mi fanno la multa, mi mandano via da Juventus. Finì così, ecco. Sì, ma tu ci credi al telebin taroccato dell'86? No, io non credo, perché chi l'avrebbe taroccato poi? Non lo so, questo è da scoprire. Io ho visto soltanto la moviola di Sassi, sì. Allora io non facevo la moviola, cioè riprendevo la moviola di Sassi, perché Sassi l'aveva inventata la moviola. Sì. Io poi inventai il moviolone, sì. Che era e lo uso ancora adesso. Sì. Null'altro che la moviola ingrandita, ecco, questo è il punto. Sì. Quindi a questa storia del telebin taroccato non crediamo? No, io non credo. Quello che dice Sassi? Certo, ha ragione. Chi l'avrebbe taroccato però, secondo lui? Questo non si sa. Allora la Domenica Sportiva la conduceva Gianfranco De Laurentiis, che però quella domenica dell'86 era in settimana bianca, quando fecero casualmente vedere a 5 anni di distanza. Ma Gianfranco De Laurentiis, se non sbaglio, era juventino, no? Ma non so. Era un tifoso juventino. Non lo so, dimmelo tu. Giovanni De Laurentiis c'è, lo potete avere in collegamento. Aldo, mancano solo 31 anni e poi sapremo tutti retroscena del gol di Muntari fra 31 anni. Esatto. Io non ci sarò, perché cazzo, 33 anni ho avuto il premio di Guinness dei primati mondiali, perché con lo stesso conduttore ho mai fatto una trasmissione così, e ho ringraziato proprio veramente di cuore questa istituzione inglese che mi ha dato questo riconoscimento, certo. Però spero di vederlo in qualche modo, ma altro mondo, devo dire. Ma sarei ancora lì a condurre il processo del lunedì fra 31 anni. Continuo a fare la battaglia per il processo. Adesso non lo dire buona, perché il Sepp Blatter, il presidente della FIFA, si è arrabbiato con Platini, il presidente del sì, okay? Ho visto. Ma quando ci mette a mettere la moglie in campo, hai favorito la formazione di 5 arbitri, una pattuglia di arbitri partito per partito, adesso sono 5 gli arbitri, 10 occhi che pesa. E continuano ad essere gol irregolari, partite irregolari, casini di tutti i generi, polemiche roventi. Certo. Ci vuole la moviola, perché l'hanno messo tutti gli spot. E per la prima volta lui ha ufficializzato ancora una volta, proprio ieri, oggi lo portano tutti i giornali, che dal prossimo campionato mondiale ufficiale ci sarà la moviola in campo per quanto riguarda il gol non gol, almeno. Beh, questo mi sembra fondamentale. Aldo. Poi tieni conto che stanno facendo la battaglia politica, no? Che... Esatto, bravo. La paraculaggine non ha limiti in questi frangenti. Anche la faccia addosso, perché ma non vedete che ci guarda, non volutano niente. No, ma vedete che gli episodi sono le assemblee arbitrali. Diciamo, durante la partita sono ancora tanti. Ma il campo del Modellone. Ma certo. Le assemblee arbitrali di quest'anno sono di quanto di peggio propone il campionato, caro Aldo. Allora vi do un particolare. Giorni fa, io facendo Milano-Roma, perché la trasmissione la faccio quasi sempre a Milano, no? Sì. Ho trovato all'aeroporto Nick, nemmeno ricordavo, ma è stato lui, come ti mangiare bello, vabbè, tutto. Allora Nick, ho detto, ma tu ti ricordi quando veniva a fare la moto, come l'hai fatto per 3 anni? Cioè, come no? E diceva che ci voleva la moto in gamba, ma come presente già la moto in gamba non la vedi più. Cioè, ma adesso è un'altra cosa. Hai capito? Quando faceva la moviola in campo, diceva che ci voleva la moviola in campo. Adesso il presidente degli arbitri, ma adesso è tutta un'altra cosa. Vabbè. Non rilascio dichiarazioni. La politica è una brutta bestia, caro Aldo. Bravo, direttore. Ciao, grandissimo. Bocca al lupo. Grazie anche a te, Aldo. Continuate a combattere le battaglie leali, quello che ci vuole. E dopo Biscardone, dunque, ci manca il campionato di Serie A fermo, come ben sapete, per gli impegni della nazionale. Adesso si gioca a Malta martedì per la qualificazione mondiale 2014, partita imperdibile, partita che insomma che ci vede un pelo favoriti, ma comunque tant'è, insomma, avremo modo di parlare anche di questo. Allora, echi di campionato, per non farcelo mancare troppo, mentre vi saluto con Franco Piantanini, autore di questo programma, e Fabio Cantadori in regia. C'è Sannino, di nuovo allenatore del Palermo, alla ricerca dell'arca perduta. Buon sabato a tutti. Sono partiti tanti anni fa, 29 partite fa, a cercare l'oro. E cercando quest'oro, eravamo in tanti, tantissimi, no? Una sessantina, credo. E tutti cercavano loro, per conto suo, mai come una squadra vera che dice: oh, stiamo attenti là, c'è una strategia. Da lì, se andiamo, può cadere qualcosa. Se andiamo da là e scavi, cade qualcos'altro. Alla fine, che è successo? Tutti hanno scavato per i fatti loro. A un certo punto è caduto giù tutto. Ed è rimasto uno spazio. È caduto giù tutto, sei la miniera che se non c'ha più il sostegno e tu non conosci, è caduto giù tutto, c'è rimasto soltanto un buco lì dove siamo in quanti? Prima eravamo 60, siamo rimasti in 30, non lo so, 35, che cercano di respirare tutti in quel buco lì, e questo buco è la partita con la Roma. Stiamo aspettando che ci vengano a salvare, e se noi con la Roma vinciamo, forse i soccorsi riescono per un altro buco e possiamo dividerci e respirare ancora meglio. Ma se con la Roma non si vince, quel buco li si ottura ed è finito.